attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Chi è? Non ti sento bene, se molli troppo in fretta il macchino si capisce cosa dici. Ah va! Hola! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ascolti Italia Sardegna. Ora se chiude di ex. Italy from Sardinia chiama. E va. Ma che sei Franco? Non ti sento più radio, sei basso basso. Attenzione tutti bella. Lo intendo. Oi. Station my friend. Italy from Sardinia. Oh fra, non esci di radio c'è il microfono. Che microfono? Ora sì. Cosa c'è stazionale? E adesso è risolto. Perché il segnale è sempre lo stesso, Ma lo spezzo? Sì. Attenzione, canale 10, brecco. CQ10. Chi è? Ehi, sempre io. Ok, che avvento era? Guarda un po'. Ok. Ok. Così, mi ascolti? Sì, però adesso è strana. Era prima, era più forte la radio. Era più forte la radio. E adesso si è attaccato. Ehi, adesso sì. Aspetta. Così sono 10 watt. Così. Già va bene. Comunque aumenta anche la radio quella parte. Prova un attimino da un passaggio all'altro. Ehi capo, vieni a vedere. Allora. Ecco. Così è attaccato. Così è staccato. Vieni a vedere. No, no, è uguale, dai. È forte tutti e due i modi. Che microfono stai usando? L'MD-4. È forte. Ehi capo. Diciamo che sto usando, come radio sto usando il President, Lincoln. Ah, non è il Galaxy questo? No, no, l'ho messo da parte perché mi si abbassa la denominazione. Ah, sempre la storia della pensione. Bisogna vedere, magari c'è qualche cosa in perdita, capito? Probabilmente c'è qualcosa in perdita. Della parte del trasformatore, chi lo sa, anche resistenza o qualcosa del genere. Ehi capo, quando glielo porto più avanti glielo porto e già ne ho radio per modulare. Va bene, sì, bene, certo che sì capo, ne va bene anche questo. Comunque la radio, anche se attacco la radio, com'è, guarda così, com'è la radio? Oh, già è buona ragazza. Non la distorce niente. Basta che tu non metti, non si col Galaxy, perché col Galaxy non devi mettere a manettone, devi metterlo a tre quarti, dai. Capo, quello sì, il Galaxy è diverso. Questo non è che mi dà tanto in corso, allora mi sto dando 15 watt a manettone mi sto dando. Adesso l'ho attaccato al manettone, così l'ho attaccato al manettone, vedi? E mi dà 90 watt in tutto. E non distorce niente, vedi, secondo gli apparecchi distorce. Capo, infatti. Però l'ho visto anche l'altra volta, questo l'avevo già provato e non distorgeva. Già lascio per dire se è a 10 watt distorce. Perché quello come fatto c'è da 5 a 10, quindi 10 watt dovrebbe entrare tranquillamente, 15 no, ma 10 sì, 15 è anche troppo mi fa, però c'è anche un grip. Capo, infatti, allora, quindi sono 10-20 modulati, ho fatto quando? Adesso sono 5-10 modulati, 5-10 modulati. E mi dà 65-80 modulati. così va meglio, non so perché, perché gli entrate li sta vedendo troppo. Ehi, capo, a te che poco fa ho fatto un attacco all'MPP5, e voglio provare l'MPP5 a vedere. Prova, prova. Ah, e c'è la Nanni, ora sei brava cantando. Sembra Viana Ossa cantando. Cosa? Sembra Viana Ossa cantando. Anna Ossa? Perché hai sentito qualche canto della Ossa? Che ho fatto? No, non ne ho messo. No, scherzando. Ciao, amico mio di Porto Torres. Gianni? Ah, no, Franco, ciao Franco. Porto Torres, non è Eugene. Sì, ciao Franco, non so se mi ascolti adesso, prima ho sganciato. Infatti non ti ascoltavo poco fa. Sentivo che stavi parlando, però non ti capivo. Gianni, com'è adesso la radio? Buona, buona. Ok, questo è l'MVP5. Infatti poco fa quando tu mi hai detto che non c'era radio, è ovvio che non c'era radio, era abbassato tutto il micchiglie del microfono. Non ti sentivo quasi, ti sentivo a bisbigliare. Capa, va bene adesso, dai. Va bene, mi piazzo di nuovo l'MVP4, è meglio. Ma va bene anche questo, se lo vuoi lasciare va bene. Lucrezia, cosa si vede? Papà, rispondendo ai messaggi. Se qua uomo, ne go illudirà. Oi, da lì, ciao, buonasera. Buonasera. E allora. Lui si divide a metà tra baracchino e telefonino. Infatti. Oh, Gianni. Nara. Capo, dai, ci sentiamo dopo e mi sto chiudendo, che stavo facendo lo stazzone. Fra un po' vi ascolto, ma vi faccio questo lavoretto qua. Ciao, Natalino. Ciao, Fra. Va bene, Fra, fai quello che devi fare, non c'è problema. Avanti, Natalino. Capo. Che passi con il resto. Oh, signor. Luca. Si può fare una... Tu già mi non rispondi, è proprio uomo all'inizio. Io. Vabbè. Sono un dolore, Natalia, rimane su Cocaggiù. Brutte sono le cadute. Se provo niente, non sapevano cosa fare, hanno preso il primo. Lo so, anch'io sono tutto a delurie. Io sono spacco lo Smith a quel poco uomo, la casetta. Ti brucio anche l'antenna, ti brucio l'acqua. Così parla con un muro dopo. Mica ti faccio mangiare il brodino di mamma ogni stasera, non hai capito, bello bello. Tu lo sai. Anch'io ho a chi è che brucia la sempre prepotente, sì. A te l'immagine, mi dice sempre queste cose, queste Luca. Carlo. Caffè. Se ne muovi, mocca che gli auro. Vai, Luca Pugioni, ti faccio squillare il telefono. Davvero, tu lo sai. Io c'ho tutta la registrazione, tutto caro. E a questo Luca Pugioni bisogna fargli squillare il telefono. Io ho le MP3, dove ci sono tutte le conversazioni, tutte le canzoni di Falcone, da Papa col Pomodoro. Qua. Bravo Luca. Se mi hai su Facebook la tali di me, dove il cantante. Non ti ho capito già. Tu su Facebook mi hai a me. Come sta? Stava. Cosa adesso se ti ho su Facebook? Già sono un anno di non dentro. Molti sono. Hai capito? Non lo so, perché sono chissà quanto tempo che non c'entro lì. Sì, ma senti oggi quindi che è una cosa bella. E io via. Tu camera bigliando in giro, perché l'ho cantata io quella canzone su Facebook. Lui la canta Edu, sì. Ci sono boato. Ci vuole buono. Quello Cappugiuno. Ah, tu Cretia. Non parli adesso, bello bene, non parli. E poi è molto orribile, Luca, dove ci sono un bel po' di canzoni. Cioè, senti, ogni tanto entra da qui, via, cucinata. Oh, via. C'ho tutto il fianco, che ho sbattuto al marmo. È presente andato a prenderle. Mi ha dato le paste, mi sono messo il borsello sopra nel collo, mi sono girato per andarmene via e sono bucaggiuto, non so nemmeno come, ho mammullato l'anca oppure ho inciampato un piede con l'altro e ho perso l'equilibrio e ho sbattuto al marmo che c'è proprio dove paghi, no? Sul bancone. Mi ha sbattuto il fiato, ma allora replica. Ho sentito qualcosa mugugnando, poverino, a Tyson. E già ribassa, già finisce adesso il calore tra poco. Tutto il mese dura, ma la giusta, non si andata nei occhi, me la regala in occhi sotto, poi fu. Poverino, e lui soffrendo sopra, a chi vuoi uscire? Ma tanto poi quando lo butti lo sai cosa ti fa, ti tira da una parte all'altra, vai che te la regherete da passeggio, no, non puoi. E infatti, e poi non ti vidà già, si vai anche a cucina, non ti vidà. No, ma poi sarei stato un attimo, tante volte mollami la gamba, capito? Può essere anche quello, perché la muscolatura ancora non è formata bene bene. Sì, si è formata di più, eccetera, quasi tutto a posto, però ancora io mi ricordo che l'altra volta in 3 mesi sì, me lo sistemato, però ci è voluto un anno proprio per essere perfetto. E infatti ancora i muscoli non sono messi a posto già. Devi stare molto attento, mica quelle cadute sono brutte. Io pensavo di avervi rotto la costa. Quindi si sono assustati, si scendono i pasticcini pure. Hanno pensato che raga che infarto, che mi era giunto. Una signora mi dice, oh signore. Eoia, mamma mia. È pericoloso perché tu sei anche pesante e ti sei sbattuto proprio al fianco, mamma mia. Chissà che addolori. Io pensavo che la cosa la fosse fratturata, e non riuscivo manco a muovere. Adesso mi ho passato un po' di pomata, un pochino si sta alleggerendo, no assai, ma prima non mi inchinavo nemmeno, non riuscivo a inchinare. Sì, me lo posso immaginare. Un amico mio è caduto così stesso, si è fratturato 3 costole. Cazzarò. Purtroppo, che chi se lo immaginava? Stavo scherzando. Addirittura tu mi hai detto 12 di pasta e poi è rimasto a carociere. Io e quello lì solo lascia per dire che me lo mangio adesso. Si è messo a ridere. Io ho detto. Cazzaro Marco, senza compagnia la sola non andava bene. Era l'ultimo, dopo non sono cannoncini, sono cannoncioni. E a me lo posso immaginare, manni come ti ripazzi, in chivi. Tutto fanno bello massiccio. Al latte dolce, cos'è? Ma sì, a quello che c'è latte dolce. L'ho comprato 2 paste quando sono uscito da dare sangue, da fare le analisi, mi sono preso 2 paste. Sono piccole, ma piccole, le ciabatte sono piccolissime, i cannoncini in barre di pastiglia. Figurati. Giuseppe Masia, sì, quello lì che c'è per uscire sulla Budibuti. Le fa piccole, già sono belle cremose e buone, la verità, sono buone, però sono piccole, con frontiani su, quello le fa lo stesso, belle cremose, cioè dall'inizio sino alla fine c'è la crema, non è come ti dici in base che mi mani a sino alla vita e viene appena appena. E chi si trova a avere un attesi, si trova a imparare da Giovanni Casu in via Campidano, lì ha lavorato sempre lì Giuseppe, fratello di quei fratelli Masiani che hanno imparato da me. Ce n'è anche una di pasticceria, scendendo in via Principessa Iola, da però alla fine, subito dopo l'entrata del porcellano, c'è lì. Quello lì chi è? Antonello è il fratello di quello lì, Antonello Masi, e poi ce n'è una lì Punti, che è l'altro fratello più piccolo. Ah ecco, sono 3 fratelli, ho capito. Sì, sono bravi, a Ripunti avevo fatto una torta una volta ed era veramente buona. E anche i tramezzini avevo preso. se io l'ho andato a mezzini, l'anno passato l'ho presa lì e l'altro ho preso la torta e non comprerla, non mi ricordo se di Marco, di Manuel. Eh sì, sono fratelli quelli lì. Giuseppe, Antonello e Luigi, quello di Ripunti, Luigi si chiama quello, che ha sposato una di Usilo, ha sposato quello lì. Li conosco bene tutti io. Allora la te docente che sta facendo le pratiche per andare in pensione, se ne devo andare in pensione. Adesso ci faccio una domanda che mi tocca, venendo in pensione. E stava cercando una signorina per stare pasticceria. E ho capito, lì ci lavora anche la moglie e la figlia. Ma gli interessa reale? Sì, sì, è vero. Mi hanno servito loro una volta, la moglie e la figlia. E va bene, pasticceri più o meno tutti li conosco. Figurati. E mi intendo via Guidotti. E se no non sono buone le frittelle che fa. Come si chiama? Ma... quello che c'è a Prendanina, dove c'è Oppo, che ci sono quelle fontane, come si chiama? Ma non mi viene all'ufficio. Cesaraccio. Esatto, Cesaraccio, lo sai che ha preso il matrimonio lì in Vigione, anche lì. Il sapore, come le faccio con mamma, proprio col sapore dell'anice, mica. Ah, ma morbide, morbide, calde, calde, l'altro giorno le ho prese perché sono andato a prendere il pane. Mamma mia, che bella vetrina. Sì, perché avrà la pasticceria interna anche, capito? Questi panifici hanno anche la pasticceria interna e fanno sia i dolci che il pane. Sì, sì, sì, è buono anche il pane all'uva. Il pane all'uva che fa? Ne ho preso uno, era morbido, morbido. Tipo pane al latte, così. E si scioglie in bocca. Lui il pane all'uva e poi ho preso le frittelle per carnevale, non mi scherzo male. Sì, infatti c'è il negozio pure lì in via Montello, Cesaraccio. Il pane Cesaraccio è buono. Aspetta, il pane Cesaraccio è buono, sì. È buono sia il pane che i dolci, perché ho preso il pappassino una volta e ultimamente ho preso un paio di giri di frittelle così per mangiarcene con me nella per carnevale, tanto per due persone bisogna fare bijou. Sì, infatti, io già l'ho fatto una volta qua, e mi sono usciti di Buru, una visura grossa, bella, proprio di quelle lunghe mie. E mamma le faceva sia così che anche di ricotta le faceva. Sì, lo so. A me lo sai chi mi piacciono più di tutto quanto? Le castagnole, cazzo, quelle piccoline piccoline piene di crema, mamma mia. Sì, con la rotonda, io lo so qui, quando ci arrivava da noi, che fermavo il pasticcere, aspetta un attimo, ma tardi, sono fatti avanti. Esci non fa, io e mi ripigliavo lui. Sono buoni i galli, ma ragazzi, lì si dice sono buoni a vero. Sono tipo frittelle piccole, sono rotonde. Già lo so. Sono buone quelle, sono buone i cagiardini. Appena fatte, mi calde e calde ce le portava quello di Sempoli. Come si chiama? Il Giglio. Pasticceria Il Giglio. Sì, già lo conosco. Cosa ti volevo dire? Più che le formagelle a me mi piacciono le ricottelle, quelle sì che mi piacciono. Ma io vado a quando sono calde e calde, a noi ce le portava tutto per belle e calde, capito? Erano proprio morbide e morbide anche lì quando le mangiavo. E appena vati, a rughiri sono buoni. A me le ricottelle vi piacciono di più delle formagelle, la verità si dica. Quelle piccoline, piccoline. Invece i dolci di Mura non mi sono mai piaciuti. Ho preso i pappassini, erano i dolci di Ravalla, non se li buttiamo in mania. E poi i cipri, non aveva sapore di Mura. Ho preso i pappassini. Ho detto, ma amore, sono cicci, ne prendono tanti, però il bambino mi dice che sono buoni. Poi sono andato a casa e ho tutti i lavanda, chissà da quando vi la vita. No, lo sai cos'è? I papassini più tempo passa e più diventano morbidi. È che loro sbagliano il grasso, mettono, risparmiano sul grasso ed escono i dolci che la valla. E allora? No, no, erano duri, non mi sono piaciuti. Mentre invece quelli che portavano a noi erano morbidi, morbidi, ti risciugliano in bocca come ti bagnano. Ed è belli saporiti, sempre con sapore dell'alice, proprio dell'uva passa. E a chi pure vedi conditi, si sbagli un grasso, gatta, si ruttita, chi tecini dolci che la palla. Tecini, proprio i papassini sono diricati in questo senso. Se non ribono in un grasso che vivo, si ruttito. Mia suocera in casa faceva sia biscotti sia gli amariti e che si duravano un mese morbidi, erano sin duri animali e riuscivano sempre morbidi, morbidi, morbidi, quando tu li mangiavi erano proprio buoni e anche un mese ti durava una tali senza duri. Lo so, si ribono il condimento che vivo, più anno più si fa di nemuti addirittura di soccudì. E sono buone, pazienti, si guggoni mi, signora, in occhi, lo piccolo mio, ha concetta per la zia sempre, ma moglie, vedi, buone gatta, ma che di guggoni sono chissi senza la gappa, sono manni senza la gappa, ma moglie, moglie, ti si sciogliono in bocca. E a me la cappa non mi piace, io la tolgo anche dai bignì, io la cappa la tolgo, non mi piace. Mi tolgo la cappa più e poi me ne mangio, no, quella cappa è troppo dolce, non mi piace. Perché il zucchero fondente è quello, quello è logico che lo devi togliere. Chi su se ti va a saltare la glicemia ti incumilia? No, ma è proprio una questione di gusto mio, Natali, non è per la glicemia. Sempre tolto da quando ero bambino, lo toglievo sempre, non mi piaceva. E li mangio, però li ricavo sempre il coso, sempre la cappa che non mi piace. E dolci dolci. Poi facciamo i bianchetti, la suocera, facciamo belli dolci, facciamo buoni, e anche la pasta fatta in casa. Te le cavellite erano giuri che faceva belli ciccioli, li faceva e belli pieni. Domenica l'ho mangiato io le quelle tagliatelle, quelli anito di ordine all'uomo, gli erano i bonguboni. Ha giubato i cabaci asciutti e ti veringhini lindi. Ma le comprate o le avete fatti? No, pasta fresca è. Cazzo, è subito guzzini. Allora non è buona. Già lo credo. Con la fresca si cucina subito. Mi associo le ravioli, li riempivo, erano belli grassi, belli pieni. E ti faceva venire proprio voglia mangiare, poi con questo sugo che era speciale, lo faceva un bel buono, mia suocera lo faceva un bel buono il sugo, anche mamma, però mia suocera mi dava un gusto particolare e mi piaceva. Faceva questo ragù, oi oi, e fatto sta che quando li mangiavi non avevi più grande mangiare, anche da rimetti deci, perché lei prendeva la ricotta dal pastore, che c'era un pastore del Nuorese lì vicino, no? Su via Pulizia da su, e andavano, erano amici, e andavano, ci prendevano la ricotta lì, quando li dovevano fare, lo faceva con la ricotta appena fatta. Una voce alla Giovatti di ravioli in pasticceria, io per mia suocera. Presente ce l'hai due banchi di acciaio inossidabile che c'erano al centro. Sì. Tutti e due i banchi pieni di ravioli. Ha giubato tutta una tirata. Prima ho fatto la base e poi ho fatto il coperchio. Ti gioco di Zendi, ha giubato il ravioli, gatta. Ma lo sai, di Russo si è mandato io e Paola. Io, Paola e Grazia siamo andati. Io e mia cognata pure c'era a darmi una mano. Ha giubato mano con la sfogliatrice, cazzo. L'ha giubato due banchi pieni. Così sono buoni. Non è come quelli che compri, che sì, hanno la roba dentro, ma è roba così. Gli spinaci, tutto quanto fresco prendeva mia suocera, anche la ricotta andava dal pastore, se la faceva dare, infatti aveva questo sapore così buono. spennellati con l'uovo erano per attaccare, no? E tagliati con la rondiglia. Ma tu dovevi vedere che i ravioli, ma buoni, ci ne avevamo ringhiti i ridigli. Almeno fidanzato con Paolo, ammi la più va. Due banchi pieni, la giù va. E vabbè, così per dire, i pappacini in casa già li puoi fare, li facevo anche mia suocera col fallo di casa, i pappacini, i biscotti savoiardi, faceva savoiardi, faceva i bianchetti, tutte queste cose, non lo sai, quando andavo, ce le regalava a portarceli a casa, gli aveva al massimo a tutti e due li dava. No, qua non c'è posto per farli, già, nove lungo, nove, e poi vivo un banco, vivo come ti si tocca, ma farli, oh, io già li so fare anche sopra l'acciaio, per esempio, perché dopo mi ero abituato, perché mi avevano fatto togliere quel banco di legno bello che c'avevo, te lo ricordo, quello lì di cazzo che non andava bene, allora ho dovuto comprare tutti i banchi in acciaio inossidabile. Nei primi tempi ero già quando tu vieni a mare a travagliare, quando uno è abituato a travagliare con un banco di legna, specialmente per le sfoglie, queste cose così, e ci fanno cambiare i banchi, guarda, ti trovi così male. Magari si attaccava, no? E bisogna buttare sempre farina sotto. No! Non è che si attaccava, devi venire a mare a travagliarvi proprio i banchi in acciaio. Cazzo, chi tu era legno, neanche quelli in marmo potevo usare, li hanno fatti buttare via tutti in acciaio inossidabile. A chi dici che si annidano i ribarassiti, ma cosa cazzo? Era legno buono, chissù, grosso cazzo così era, ma guarda, una frutta quando mi stanno fatto un paghi su chi su banco, non si rubaria niente. Io l'avevo regato in campagna, non si l'avevo rampato, l'avevo regato in campagna, magari quando devi tagliare che cosa virà. E così ha giù fatto, poi il basamento era in ferro, mi era un banco con le balle quadrate veramente. Poi non te lo ricordi com'era quel banco di legno che avevo io? Vagamente sì, mi ricordo l'impastatrice che era entrando sulla destra, poi c'era il forno in fondo, sì, mi ricordo bene o male com'era. Sono passati un poco d'anno. Già lo so. E quei banchi c'avevo, un banco in marmo e un banco in legno. C'avevo. Beh, ha già dovuto comprare quattro banchi in coso, in acciaio inossidabile. Perché dice che non andavano bene. Si è giunta poi che ha fatto insieme rampare a cazzo. A chi vorrà che tutti i pasticcerivi la viano in acciaio inossidabile. E io a quelli a norma sono così, anche macelleria. Macelleria prima ci avevamo il ceppo per tagliare la carne in legno. Ce l'hanno fatto cambiare in plastica, tutto in plastica. E hanno fatto mettere il coso, anch'io ce l'ho un tagliere così, ne ho uno in legno e uno, e cosa è? Non è plastica proprio, no? E non lo so, materiale duro, è una plastica dura mi sembra, e comunque è andata lì, è così. Ehi, Alzogu, no, non mi puoi bisogni più in legna, no. Se ti lo fanno dei lampari, vigili sanitari, cazzo, e si sa a me. Sono venuti apposta a farti buttare via i banchi. Ma la zutti, cazzo. Perché tutti dovevano avere quelli in acciaio inossidabile. Ehi, a Natale ci è fatto tardi, dai, devo andare che devo andare a prendere l'aereo, ma devo portare giù taggio. Dai, ci sentiamo magari un po' se ci sei io un po' domani, dai. Mi dispiace lasciarti da solo, però devo andare, dai. Ciao! Ciao, ciao, alle prossime! buonasera. Ebbe capito. Buonasera, Tino. Lo so, non mi riconosci con questo microfono, eh. Sì, sì, adesso sì. Ciao Tino, buonasera. Ciao, ciao. Andare, ho visto la portante.